Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro, il portale della regolarità delle imprese di autotrasporto che ora è diventato pienamente operativo, il costo a carico dell'intero sistema logistico nazionale, almeno 6 miliardi, che deriva dal ritardo nella realizzazione del terzo valico ferroviario Genova-Milano, a novembre l'impennata delle immatricolazioni dei veicoli commerciali, secondo i dati di Unrae. Questi gli argomenti principali della puntata di oggi. In apertura, il portale della regolarità delle imprese di autotrasporto, uno strumento diventato pienamente operativo proprio in questi giorni, uno strumento adottato sul fronte della legalità che mira a rendere sano un mercato inquinato da forme di concorrenza sleale praticate dalle imprese che non rispettano le regole. Superate le ultime difficoltà tecniche, ora il database è pienamente funzionante. In linea con noi c'è Silvio Faggi, vicepresidente dell'Albo degli autotrasportatori. In effetti dalla giornata di mercoledì praticamente è possibile accedere a questa nuova funzione dell'albo che consente in sostanza ai committenti di verificare, prima di andare alla stipula di un contratto di trasporto, di verificare appunto se l'impresa a cui intendono affidare il trasporto delle proprie merci è in regola oppure no. Quindi è per le imprese, diciamo, in regola, un grande risultato, almeno noi ci auguriamo che sia veramente un grande risultato e che consenta di mettere ai margini, fuori dal mercato, tutti quelli che, come dire, non sono propensi a rispettare le regole del gioco. Ricordiamo quali sono le conseguenze a carico dei committenti, e per committenti non intendiamo solo le aziende ma anche i singoli cittadini che richiedono un servizio di autotrasporto. A carico dei committenti la normativa prevede una responsabilità, direi, piuttosto pesante, nel senso che il committente che non verifica preventivamente se il vettore a cui intende affidare i carichi è regolare oppure no, oppure che a seguito della verifica risulti irregolare ma decida comunque di affidare, perché magari costa di meno, no? Ovviamente, non per altre motivazioni. Ecco, quel committente rischia di essere chiamato a rispondere delle obbligazioni del vettore stesso, obbligazioni in termini di versamento dei contributi, sia addirittura potrebbe essere chiamato a rispondere del mancato o insufficiente pagamento dei salari ai dipendenti dell'impresa di trasporto. Quindi, come dire, rischi notevoli. Cosa bisogna fare tecnicamente per consultare questo registro? Bisogna andare sul portale dell'automobilista, registrarsi come cittadino, non come impresa, seguire tutta la procedura quindi della registrazione, c'è da compilare un format e questo lo può fare chiunque, compilare, entrare. Una volta registrati si può fare la richiesta di verifica della regolarità di un'impresa indicando, se è un'impresa individuale, il codice fiscale del titolare, se si tratta di una società, della partita IVA. E a breve anche sul fronte della registrazione ci sarà una novità. Dal 1° di gennaio, forse già con qualche giorno di anticipo, tutta questa operazione potrà essere fatta direttamente sul portale dell'albo, perché proprio in questi giorni andrà in linea il nuovo portale con tutta una serie di servizi e di informazioni particolarmente interessanti. Silvio Faggi, vicepresidente dell'Albo degli autotrasportatori, grazie e buon pomeriggio. Grazie altrettanto a voi. Il nostro paese sconta un deficit logistico pesante. Le inefficienze del sistema costano ogni anno 42 miliardi, praticamente 700 euro per ogni italiano, così sostiene uno studio di Confcommercio. Tra le grandi opere che arrancano c'è il terzo valico ferroviario tra Genova e Milano. Stando alle previsioni decisamente più ottimistiche, il primo treno circolerà solo nel 2021. Nel frattempo, però, il prossimo giugno in Svizzera sarà aperta al traffico regolare la galleria ferroviaria del Gottardo, la più lunga al mondo. Succederà così che lungo il corridoio intermodale Reno-Alpi, tra i porti liguri e il nord Europa, si viaggerà a due velocità con ulteriori costi in termini di mancati introiti a carico del sistema logistico nazionale. Ha provato a quantificarli uno studio condotto dal Certet Bocconi. Al nostro microfono il professor Oliviero Baccelli, che ha curato la ricerca. Significa che una serie di ammodernamenti prevedibili nella macroregione logistica del nord-ovest saranno posticipati di almeno 5 anni e che nel frattempo si perderanno opportunità di lavoro, di ribaltamento delle capacità competitive dei porti liguri rispetto ai porti del nord Europa, di sviluppo di centri di distribuzione con una capacità di coprire mercati del sud Europa che appunto non avverranno nei tempi e nei modi previsti, e questo può portare a delle perdite di valore della produzione per il sistema paese che abbiamo calcolato essere all'incirca di 1,2 miliardi di euro all'anno. Moltiplicando 1,2 miliardi l'anno per i 5 anni minimo di ritardo, e questo è il valore che si ottiene, 6 miliardi di mancata valore di produzione per il sistema paese. Certamente esiste un ritardo particolarmente oneroso nella realizzazione delle grandi opere, ma a rallentare la ripresa e la competitività del nostro sistema contribuiscono altri fattori. Questo è il dato di fatto oggettivo. Non si tratta però solo di grandi opere, ma si tratta anche di aspetti regolatori. Abbiamo individuato diversi aspetti regolatori che vanno appunto dalla posizione riguardo al numero di macchinisti a bordo del treno, piuttosto che i regolamenti sul peso dei treni nel suo complesso, piuttosto che le modalità di assegnazione delle manovre nei terminal portuali e nei terminal terrestri. Quindi è un tema, quello della logistica nord-ovest, che vede nel problema delle infrastrutture transappenniniche uno dei temi centrali, ma è anche un tema di regolamenti. La sottovalutazione dell'insieme di questi aspetti infrastrutturali, organizzativi, regolatori sta ritardando molto anche gli investimenti dei soggetti privati, che hanno ormai preso, fra virgolette, l'abitudine a servirsi dei porti del nord Europa, a valorizzare i servizi intermodali dai terminal del nord Italia verso nord e non verso la portualità ligure. Tutto questo ovviamente avvantaggia operatori ed economie estere, attiva un circuito vizioso per il sistema Italia, che vuol dire anche minori investimenti nel settore, minore capacità di raccogliere i benefici. Prima, a proposito dell'apertura del tunnel del Gottardo, si parlava della Svizzera. Sul territorio elvetico il trasporto di merci aumenta in maniera significativa. L'Ufficio Federale di Statistica ha reso noti i dati relativi al 2014, secondo i quali il progresso è del 2,8%, cioè la media tra il più 4,6% relativo ai trasporti ferroviari e il più 1,7% per quelli su strada. In Svizzera nel 2014 il 25% delle prestazioni di trasporto è stato effettuato da veicoli immatricolati in Germania, il 16% da veicoli immatricolati in Italia e il 10% in Polonia. Questi ultimi sono raddoppiati rispetto al 2008. Sale la quota di servizi operati dai vettori romeni. In 7 anni è quintuplicata. E a proposito di numeri, ce ne sono altri incoraggianti che riguardano l'Italia e sono stati diffusi da UNRAE, l'Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri. A novembre le immatricolazioni dei veicoli commerciali fino a 3 tonnellate e mezza sono aumentate del 37% rispetto allo stesso mese del 2014. Per commentare questi dati abbiamo sentito Romano Valente, direttore generale di UNRAE. Incremento importante del mercato dei veicoli commerciali nel mese di novembre. I veicoli commerciali, parliamo degli autocarri con peso totale a terra fino a 3,5 tonnellate. Nel mese di novembre hanno registrato un incremento pari al 37% rispetto al dall'anno scorso, e questo realisticamente grazie alle agevolazioni fiscali che sono state previste dal decreto di legge di stabilità con il cosiddetto superammortamento, che consente dal 15 ottobre scorso di portare in ammortamento il 140% del costo di acquisto dei beni strumentali, quindi anche i veicoli da lavoro. Con il risultato di novembre naturalmente abbiamo un miglioramento della proiezione a fine anno del mercato, che dovrebbe chiudere con un incremento tra il 12 e il 13% a circa 135.000 unità vendute. Per oggi hashtag autotrasporti termina qui, questa è la puntata della settimana di Natale, grazie per l'attenzione, auguri da Andrea Ferro. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.